Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Eccoci qua, ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Allora, noi incominceremo col nostro grandioso concorso che risolve un grande problema sociale, lo sapete già, ma adesso lo riscaldiamo questa cosa. Poi? E poi parliamo di lupi, ci chiediamo e cerchiamo di capire quanti ce ne sono in Italia. E poi parliamo di cervelli in fuga dalle guerre. Via allora. Eccoci qua, allora il nostro concorso che risolve un grandissimo problema. Ve lo ricordate, vero? Vi abbiamo chiesto di spremervi le meningi per cercare di eliminare quel fastidiosissimo rumore che la macchina macina caffè nei bar. Sentiamo il promo che va in onda a Radio 24. Un ultimo fondamentale passo per l'umanità. Dopo l'avvento dell'anestesia, della luce elettrica e del vaccino antipolio, resta un'ultima sfida da vincere. Eliminare il frastuono del macinacaffè nei bar. Mebius, la trasmissione di scienza di Radio 24, presenta il primo Reduction of Noise Award, la prima edizione del premio per la riduzione del rumore. Inventori, inventrici, avete tempo fino al 30 giugno per tirare fuori le vostre idee più vincenti. Tutte le info alla pagina di Mebius su radio24.it, in collaborazione con Faber, l'azienda leader nelle cappe da cucina per il terzo millennio. E chi c'è qui con noi stasera? C'è Luca Colciago, che dirige la ricerca e sviluppo di Faber. Buonasera Colciago. Buonasera a tutti. Buonasera. Lei condivide questo dramma sociale che potremmo riuscire a risolvere? Assolutamente sì, credo che il problema del rumore sia un dramma sociale in generale, esatto, incluse le cappe da cucina, ma in questo caso particolare è particolarmente fastidioso. Per la gente, per chi frequenta i bar, ma anche ovviamente noi lanciando questo concorso facciamo un po' di chiacchiere ovunque, la gente che lavora nei bar dice che è terrificante, perché io ho detto lo farete andare una ventina di volte al giorno, mi hanno guardato e mi hanno detto magari che va 50 volte, 60 volte, un disastro. Parliamo di grandi numeri, quindi di un fastidio insomma da risolvere in qualche modo. In particolare lei Colciago, col vostro team, giudicherete qual è la proposta che arriverà che può essere più di qualità, cioè che risolve il problema, e costruirete il prototipo. Attenzione, che tutti quelli che seguono un po' le dinamiche dell'innovazione sanno che invece che vincere quei premietti di 2.000-3.000 euro, se ti fanno il prototipo vuol dire che sei a un punto molto avanzato per andare al mercato. Però, allora, voi fate queste cappe, intanto noi vi abbiamo presentato come un'azienda un po' pazza, simpaticamente ci va bene perché siete stati bravi ad accettare questo concorso. A crederci insieme a noi. Esatto, esatto. E voi progettate queste cappe del 3000, del 4000, che sono fantastiche. Uno, abbiamo una prima domanda da farvi, che mi fa Simona. Sì, Luca Colciago, qualche puntata fa noi abbiamo ospitato Margherita Fronte, giornalista, coautrice del libro Cambiamo Aria, edito da Baldini e Castoldi, e lei ci ha spiegato quanto sia importante cambiare aria proprio in cucina, perché quando cuciniamo, quindi quando accendiamo i fornelli, durante la combustione si liberano una serie di sostanze inquinanti, quindi si liberano nell'aria, e quindi è importante usare le cappe, però se non sono così potenti non bastano e quindi bisogna aprire le finestre. Come la mettiamo con le vostre cappe? Si riesce, o no? Questo è verissimo e conosciamo il tema, per cui abbiamo sempre, da sempre, lavorato nel cercare di risolvere questo problema su diversi fronti, perché è vero che la potenza di aspirazione è sicuramente un indice di efficacia della cappa, quindi più potente è il motore che ho all'interno della cappa, più aria aspiro e di conseguenza meno inquinanti mi ritrovo in cucina. E da questo punto di vista noi siamo sempre stati, diciamo, leader dal punto di vista delle potenze e delle capacità di aspirazione delle nostre cappe. Ma parallelamente abbiamo lavorato anche in un'altra area, magari un pochettino più tecnica, un po' meno considerata quando si parla di questi problemi, che è relativa alla capacità di captazione della K, ovvero a parità di motore, a parità di potenza, la forma della K può influire in maniera significativa nella quantità di vapori che vengono aspirati rispetto alla quantità di vapori che vengono persi. E per fare questo sono necessari degli studi di dimensionamento corretto delle superfici in maniera da raccogliere quanti più possibili vapori. Però al momento si riesce a recuperare molto di quello che è prodotto, no, durante la cottura, però non diciamo che altri inquinanti che comunque ci possono essere, perché poi diciamo apri la finestra e ti entra chissà che cosa. No, il problema è che entra anche una schifezza che c'è fuori. Quella roba che c'è fuori per il momento, insomma, va bene, è il danno minore, ecco, diciamo così. Oggi è il danno minore, certo, i fumi di cottura, un fumo di una frittura è sicuramente più inquinante dell'aria che può arrivare inquinata dall'esterno. E quindi quello si riesce a eliminare. Assolutamente, quello oramai è trattato nella maniera corretta, viene aspirato nella maniera corretta. Luca Colciago ci diceva che voi state studiando, avete studiato anche forme particolari che in qualche modo contribuiscono a rendere più efficienti le cappe. Sì, sì, stiamo lavorando perché ovviamente la forma è importante per l'efficienza, ma dall'altra parte sapete benissimo anche voi che la forma è anche molto importante per l'estetica. Per cui bisogna sempre coniugare una estetica piacevole, interessante per il cliente con una performance eccezionale, altrimenti in casa si ha un mobile e non una macchina e non un oggetto che pulisce l'aria. Sì, certo. Da questo punto di vista abbiamo sempre lavorato e stiamo lavorando molto oggi sulla simulazione, cioè simulare al computer e di conseguenza disegnare i dettagli contribuiscono a creare questa funzione ottimale nella maniera corretta. Per fare un esempio, abbiamo appena presentato una cappa, diciamo, verticale, sembra un quadro, quindi è appoggiata al muro dietro il piano cottura, ma ovviamente dietro questa cappa abbiamo fatto tutto uno studio fluidodinamico che ci ha permesso di dimensionare le velocità del flusso d'aria in una maniera tale da poter raccogliere completamente i fumi di cottura. Vabbè, ma come fate a catturarli? No, l'aspirazione avviene per depressione, cioè bisogna creare una depressione nella zona sopra il piano cottura. Ah, creato un vuoto e allora tutto finisce, esatto, lì dentro. Esatto, esatto. È come se avessimo creato un buco nero nella parte posteriore del piano cottura che attira tutti i fumi di cottura verso la parte posteriore e da lì vengono aspirati ed evacuati. Luca Colciago, grazie. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Adesso qualcuno ci racconta che cosa accade sulle nostre strade. Il traffico. Usain Bolt si mette in scia. Attenzione che spinge fino in fondo. Ha il record del mondo. Garozzo eccelle. Stoccata. La conferma. La stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, siamo abituati al lupo delle favole. C'era una volta il lupo cattivo, ma nella realtà è veramente così? Di questo noi parliamo oggi. Intanto diamo il benvenuto a Donatella Bianchi, presidente del WWF. Buonasera. Buonasera a voi. Bianchi, in Italia in questo periodo si sta discutendo della possibilità di consentire l'abbattimento del lupo, cioè di renderlo legale. E, insomma, si sta discutendo del nuovo piano lupi. Qual è la posizione del WWF? Oggi, onestamente, sentir parlare di abbattimenti legalizzati è un po' fuori contesto. Chiaramente non è accettabile per chi, come il WWF, da 50 anni si interessa impegna attivamente con tutti i suoi soci e sostenitori in difesa della natura, di questa natura, per cui il lupo è diventato anche un po' un simbolo di tante battaglie di un grande successo che ha mobilitato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, davvero l'opinione pubblica in una maniera straordinaria. Hanno risposto davvero in tanti, ma mi sento di dire non soltanto i cittadini, gli appassionati, gli amanti della natura, ma anche le stesse istituzioni, se è vero come è vero che i presidenti stessi delle regioni hanno chiesto la sospensione del dibattito sul piano di gestione del lupo durante la conferenza Stato-Regioni, per questo siamo arrivati al rinvio. Un piano lupo serve, nel senso che è importante gestirla, anche la natura, le specie che sono tornate ad abitare e popolare le nostre Alpi, i nostri Appennini, le Alpi molto meno, gli Appennini senz'altro. Però ecco, si parla di gestione, quindi di mettere in atto tutte quelle soluzioni che consentano la migliore convivenza tra l'uomo e le attività economiche sul territorio e il lupo. Invece si voleva sancire l'abbattimento legalizzato, anche se di una minima quota, ma questo avrebbe comunque segnato un principio drammatico. Allora parleremo anche di abbattimento dei delfini in futuro, piuttosto che delle balene, qualora dovessero diventare troppo numerosi. Ecco, non era tutta. La prossima riunione della conferenza Stato-Regioni ci sarà il 30 marzo. Cosa vi aspettate? Ma noi ci aspettiamo che il punto venga stralciato. Nel senso che, ripeto, quello è un buon piano, fatto anche con moltissime persone competenti e autorevolissime, però il punto che deroga appunto e consente gli abbattimenti deve essere assolutamente stralciato. Io spero che si vada in quella direzione, ripeto, credo che ci sia stato il tempo da parte di tutti i presidenti delle regioni e anche del ministro forse di fare una nuova riflessione. È chiaro che se questo non dovesse accadere noi ci mobiliteremo ancora. Grazie Donatella Bianchi. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera. In bocca al lupo. Ah, va bene. Rispondiamo Crepi? No. No. Ma quanti sono i lupi in Italia e soprattutto che danni fanno? Ne parliamo con Marco Galaverni, responsabile specie WWF Italia, naturalista, che ha fatto a riguardo un interessante studio, un'interessante ricerca per conto dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, l'ISPRA. Allora Galaverni, sono danni impressionanti, giganteschi, tali per cui bisogna abbattere per difendersi. Buonasera a tutti. No, sicuramente no. Anche nelle zone dove il conflitto apparentemente è maggiore, come nelle zone della Maremma toscana, la quantità assoluta di capi predati dal lupo in realtà è molto ridotta, meno dell'1% di quello che è il patrimonio zootecnico presente nella provincia di Grosseto, e nelle altre zone d'Italia ancora meno, per cui in termini assoluti stiamo parlando poco. Danni relativamente contenuti. Ovvio che per il singolo allevatore che si vedesse predare un numero significativo di capi può rappresentare un problema, però a livello di collettività sicuramente qualcosa che possiamo sostenere. Si provvede, gli si dà una mano. Però per ridurre gli eventuali danni al bestiame, quindi migliorare la convivenza tra lupi e agricoltori, allevatori, insomma non ci sono altri metodi di prevenzione che vengono già attuati in alcune zone in particolare che potrebbero essere estese a tutto il territorio? Assolutamente sì. Faccio solo un esempio. Se anche per assurdo dovessimo davvero voler rimuovere un lupo, cioè ucciderlo, entro pochissimo tempo ne arriverebbe un altro, perché i lupi sono camminatori formidabili e in pochissimo tempo possono percorrere decine di chilometri, quindi toglierne uno non servirebbe a nulla. Quello che serve davvero è puntarle sulla prevenzione, come fatto in alcune regioni virtuose, tipo l'Emilia Romagna, che ha predisposto un piano per dotare tutti gli allevamenti anno dopo anno di misure di prevenzione adeguate, quindi parliamo di recinti, reti elettrificati e cani da pastore, che come il maremmano abruzzese sono ottimi deterrenti per il lupo. Quanti sono? Avete stimato qualcosa, una cifra? In molte regioni a cui è demandato il compito di monitorare lo stato della popolazione di lupo, e comunque i dati scarseggiano. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutti i dati disponibili in Italia fino a un paio di anni fa, e il quadro che ne emerge è di una forchetta che va dai 1200 ai 1800 lupi. stime simili fatte più di recente dal professor Boitani per conto dell'Unione Zoologica Italiana hanno trovato dati simili con una forchetta tra i 1000 e i 2000 lupi, quindi un intervallo molto ampio che appunto indica la mancanza di dati in alcune zone e la necessità di dover fare monitoraggi più approfonditi per sapere ancora meglio di quanto già non sappiamo la reale distribuzione e abbondanza del lupo. In quale regioni sono più numerosi? E dove c'è più cibo, però naturale, e quindi le prede selvatiche come appunto cinghiale capriolo, e quindi parliamo di regioni come la Toscana che hanno, oltre ad un grande territorio molto produttivo, anche moltissime risorse in termini di prede. Senta Galaverni, ma quanto potrebbero crescere? Perché mi pare che siano animali che si riproducono abbastanza bene. A che punto potrebbe esserci un problema? Cioè il nostro sistema, l'ecosistema, fino a quanto può reggerne? La cosa bella del lupo è che è una specie che si autoregola, perché oltre ad aver bisogno di un certo numero di prede per sfamarsi e un ambiente sano in cui vivere, il lupo è una specie territoriale che vive in branchi che altro non sono che famiglie, quindi costituite da genitori e i figli dell'anno precedente più i nuovi nati, che difendono un territorio che oscilla attorno ai 100 km quadrati, il che significa che una volta che i territori a disposizione sono stati saturati, utilizzati tutti, la mortalità naturale o quella ancora terribilmente significativa, antropica, quindi tramite bracconaggio, incidenti stradali, superano quelle che sono le nuove nascite e quindi la popolazione si stabilizza. C'è un'autoregolazione. Assolutamente sì, quindi non ci sarà una crescita esponenziale dei lupi nel momento in cui le zone disponibili saranno colonizzate. Questo è già avvenuto in grandissima parte dell'Appennino, in cui i lupi ormai arrivano a ridosso della pianura, e invece non è ancora stato completato sulle Alpi, in cui abbiamo branchi stabili di lupo in tutto l'arco alpino occidentale, ma la parte delle Alpi centrali e orientali ancora è stata colonizzata solo sporadicamente. No, questo era importante dirlo, perché a me è capitato incontrare qualcuno in un dibattito che diceva: se poi diventano come le nutrie. Invece non è possibile. Esattamente, non è possibile. E questa volta allora siamo noi, Galaverni, a salutare lei dicendole in bocca al lupo. Grazie mille, viva il lupo come sempre, perché è un bellissimo augurio. Viva il lupo allora. Grazie Galaverni, buon lavoro. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. A un meeting organizzato dall'Accademia Mondiale delle Scienze e dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale a Trieste, Simona Regina ha incontrato due scienziati, un lui e una lei, che hanno il problema di avere sul passaporto il nome di un certo paese arabo. Shifa Medbout è una climatologa, ricercatrice all'Università di Barcellona, al Dipartimento di Meteorologia e Astronomia. Nel 2012 ha lasciato il suo paese, la Siria. Perché? I left Syria for continuing my PhD study. Ho lasciato la Siria per continuare i miei studi, il mio PhD. Mi sono recata in Spagna, in particolare a Barcellona, grazie a una fellowship dell'Erasmus Mundus, per continuare a studiare i cambiamenti climatici e anche per la situazione politica che avevo in Siria. There were many difficulties to continue there. Lei non è un semplice cervello in fuga, lei è una scienziata rifugiata, una rifugiata politica. Quali difficoltà incontra nel suo lavoro quotidiano in Europa, in Spagna? Really, I consider Spain that my second country and all the Spanish people, they are my Spagna, considero la Spagna il mio secondo paese e un po' anche la mia seconda famiglia. Le maggiori difficoltà le ho incontrate quando si trattava di viaggiare. In realtà io compio 3 o 4 viaggi all'anno per partecipare a conferenze o eventi scientifici, ma ottenere il visto è molto molto difficile. Ma anche se voglio vedere la mia famiglia, incontrarli, è assai difficile riuscire a trovarci. Infatti ho incontrato mia mamma all'aeroporto qualche anno fa, ma lei non è riuscita a entrare nel paese, ci siamo dovute vedere all'aeroporto. Il fatto di possedere un passaporto siriano rende tutte le cose molto più difficili. Attualmente sto anche cercando di applicare per nuovi lavori, per nuove posizioni scientifiche, ma anche questo è difficile proprio perché la mia origine siriana mi fa sì che io venga classificata come persona pericolosa. Lei si occupa proprio di cambiamenti climatici e proprio i cambiamenti climatici ancora di più in futuro saranno causa di conflitti e di migrazioni. Si parla già adesso di migranti climatici. Sure. It's, and now there are some, in your report, senz'altro il termine di migranti climatici è molto appropriato, ci sono anche dei rapporti delle Nazioni Unite che puntano i riflettori proprio su questo tema. Vorrei ricordare che la Siria ha subito due grossi periodi di siccità nel 2005 e nel 2010, poi la grande crisi umanitaria che c'è stata in seguito è proprio figlia di questi due periodi, in particolare della pessima gestione delle risorse idriche che c'è stata in Siria, e dunque questo è sicuramente uno dei motivi per cui molte persone anche se ne vanno. Ma quanti sono i ricercatori e le ricercatrici siriane rifugiati in Europa e negli Stati Uniti? L'ho chiesto a Radwa Ziad, analista dell'Arab Center di Washington. Sentiamolo. It's very difficult to have very accurate. È difficile avere dei numeri accurati. Infatti, la crisi umanitaria ha colpito tutti indiscriminatamente. Prima della crisi, la popolazione della Siria era di circa 23 milioni, poi questo numero è sceso a 15 milioni. Di questi 5 milioni stanno cercando asilo nel mondo e probabilmente, ma appunto non si può essere certi, il 25% di questi 5 milioni sono accademici, professori, studenti, ricercatori. After the eruption of the Syrian uprising in 2011, different type of scientists and professors who left the country because they are looking for safe areas. Dopo il 2011 molti di questi scienziati hanno lasciato il paese per cercare posti migliori per sé e per la propria famiglia, ma soprattutto anche sicurezza per la propria famiglia e per poter continuare l'istruzione e il lavoro. E quindi le organizzazioni internazionali che cosa possono o devono fare per supportare il lavoro dei ricercatori e degli scienziati costretti ad andare all'estero, ma poi anche per tornare a casa? QUICE and other organizations are really important and crucial. Dunque, queste le istituzioni internazionali come la TUAS sono assolutamente importanti e il loro ruolo è critico perché sono un ponte che permettono agli scienziati di integrarsi in nuove società, di costruire o ricostruire le loro capacità scientifiche e poi aiutano anche il loro rientro nei paesi di origine, almeno facilitandolo il più possibile. La prossima puntata chiariamo questa roba in bocca al lupo, chissà perché, cosa vuol dire? Però abbiamo scoperto che è più bello dire viva il lupo. Viva il lupo. Buona settimana a tutti. E a tutte, a sabato prossimo.